Entrare a Borgo Murgia è un po' come aprire una credenza. I ricordi di secoli e secoli paiono conservati, impilati in ordine nelle fenditure delle rocce. Accediamo dal civico 11 al piccolo locale in pietra a cui si accede scendendo 3 gradini e che oggi ospita Borgo Murgia. Una volta, mi dice Annina, qui lei ci abitava e con lei tutta la famiglia, tra tanti sacrifici. La prima cosa a cui pensa Annina entrando è il fuoco. Il fuoco. Il fuoco era il centro attorno a cui ruotava tutta la famiglia. Un attimo e Annina rivede la sagoma di sua mamma che riattizzava la brace ogni mattina come primo gesto. E poi la rivede la sera che copre la brace con la cenere e allora calava il silenzio e la giornata era finita. Annina ripensa a sua madre, curva, instancabile, dura, che non conosceva riposo nemmeno durante i giorni di festa. E sembra quasi di vederla anche a noi, nel suo vestito scuro, contro la cappa, in mezzo agli attrezzi anneriti. Tutta la famiglia, dice Annina, si riuniva attorno a quel camino per mangiare, e specialmente durante l'inverno, per scaldarsi. Annina mi guarda dritto negli occhi e mi racconta della gelata del 1956. Mi racconta di che cosa abbia significato per chi, come lei e la sua famiglia, viveva in abitazioni così povere e fredde. Mancava tutto. E tutto andava risparmiato. Neanche la legna bastava e allora di giorno il fuoco si faceva con gusci di mandorle, tralci secchi di viti o piccoli rami di ulivo. La brace prodotta la sera poi non veniva neanche buttata, la si usava per riempire un contenitore dal nome bizzarro ed eloquente che ci si portava a letto per scaldarsi. Questo oggetto lo chiamavano Monaco, nome che intendeva alludere all'innocenza di un oggetto che osava entrare nel letto matrimoniale. Per tutto il giorno il fuoco scoppiettava e riempiva l'aria di un odore speziato, che per Annina era l'odore del freddo e della fame, ma anche delle promesse di una vita ancora tutta davanti a lei. Quell'odore le sembra ancora attaccato alle pareti. Poi Annina mi racconta dei pasti, semplici, fatti di verdure e di legumi, che consumava con i suoi fratelli gomito contro gomito al tavolo di legno. Mi racconta della forma di pane scura, divisa tra le tante mani illuminate dalla luce rossa del fuoco. La carne era solo per i giorni di festa, quando qualche gallina o coniglio cresciuto sotto il loro letto veniva catturato e mangiato fra le risate. E poi Annina mi dice di suo padre che tornava dai campi il pomeriggio. Arrivava verso le 3 e nei minuti subito prima c'era tutta una specie di eccitazione, un timore bambino. Poi arrivava. E allora era tutto un fervore di attività attorno a lui. L'asino veniva fissato al muro, in casa, vicino alla porta d'ingresso. Andava strigliato per togliere la polvere e la fatica del campo. Poi si attaccava un sacchetto colmo di biada sotto il collo e lo si lasciava mangiare e riposare. Annina era sempre di fianco a sua mamma mentre scaricava gli attrezzi agricoli e apparecchiava la tavola. Tra una cosa e l'altra non si finiva mai prima dell'imbrunire. Faceva freddo quando il sole esausto spariva ingoiato tra i vicoli. A quell'ora si mangiava ed era l'unico pasto della giornata.